qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Sei solo chiacchiere distintivo, chiacchiere distintivo. Sei solo chiacchiere distintivo. Oh, fuck you! Looking at something that you're not seeing. What is up there? The kid was in. Talk to you about the book. Look, it's like a shame from the mirror of the sun. It's stuck in the red button. Trying to get some. This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine, long live Gaza. Un macello. Sì, le cose cambiano, diciamo, gli anni passano, no? Molte cose cambiano, ma una cosa rimane costante sempre nel tempo. L'incompetenza? Più o meno sì, diciamo che la parola rende bene il concetto che volevo esprimere. Orgogliosamente dilettanti, con tutto che ci eravamo preparati le playlist, tutto quanto, con sì, con l'assenza, insomma, ve ne sarete accorti, con l'assenza di prove tecniche di trasmissione, quindi con largo anticipo, tutto preparato, sì, tutto scientificamente posto, sistemato, con calma. No, niente, non c'è niente da fare, poi facendo gli errori più fuori, no, li sveliamo, perché appunto noi siamo poi estremamente aperti in questo, ci piace. Ma anche perché si sente, quindi anche non è perché che... sì, è inutile che... Però appunto ve lo diciamo tutto, proprio trasparenti fino a... Abbiamo messo il disco della sigla finale su quello che... Cioè degli errori proprio puerili. Pensate che questa operazione qui, quante volte l'avrò fatta? Cioè, non lo so, insomma, sono 54 settimane all'anno. Metti che... 45 te ne fai, dai, insomma, tenendosi proprio per difetto. Sono la bellezza di 13 anni o qualcosa del genere per quanto riguarda 2002, per quanto riguarda 25 o'clock, quindi 2015, sì, quasi 13 anni e mezzo di volte. Quindi dovete moltiplicare un 45 per 13 e più metteteci prima, vabbè, questa qui è la sigla e l'inizio di Next Time, c'era altra sigla, altro disco, quindi non lo mettiamo in mezzo. Fate questo conto, insomma, sarebbe un 400 e poi 5 per 5, 25, una roba tipo 700 volte l'ho fatta sta cosa, va bene? Credo di non aver mai sbagliato la sigla d'inizio con quella finale. Radio Onda Rossa 22, 20 minuti primi. Sugli 87,9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. questa volta è la prima puntata per quanto riguarda questo 2015. Ce la prendiamo un po' con calma, dai. La prossima settimana avremo degli ospiti, già ve lo annunciamo, in quanto andremo così a spingersi il concerto di Radio Onda Rossa per Radio Onda Rossa. Del 17 prossimo, quindi lo faremo in estensione e nel dettaglio mercoledì prossimo. Questa sera invece si metterà qualche disco e si darà qualche informazione qua e là riguardo a quel che succede così di saliente. Di tanto in tanto ci piace ritornare. Vecchio format, così si dice. Allora, vediamo un po' di contatti utili della radio. www.ondarossa.info, dove troverete tutte le informazioni anche su come sottoscrivere per Radio Onda Rossa. 61 80 40 01 è il numero del conto corrente postale da intestare alla cooperativa Laboratorio Culturale 2001, Via di Vosci 56 00185, Roma San Lollo. Chiamateci allo 06 491 750 o trillate, insultateci invece alle mail nostre 25oclock@ondarossa.info e oppure fantasma@ondarossa.info. E noi, sperando che sia di buon augurio, iniziamo così. Vabbè, 06 491 750, senza una casa, senza un lavoro, la mia generazione prima o poi esploderà. Io fantasma lo facciamo d'ufficio, dai. Oppure mi squilli col cellulare, vedi te, dai. Vabbè, dai, lo simuliamo. Trillo. In the City, gli ultimi. Ti racconto un'altra brutta storia della mia città. Spero sempre che sia un incubo invece alla realtà. Senza una casa, senza un lavoro, la mia generazione prima o poi esploderà. Vedo facce rassegnate e tristi nella mia città. Apatia, disagio, rabbia, mille difficoltà. Chi è come me non si rassegna. Solo un pensiero in testa, risvegliare questa città. Borgate ti raccontano verità. Dalle vetrine del centro vedo solo spazzatura. Un un ragazzo di periferia è morto proprio qua. Per lo Stato un'altra mela a marcia della società. Gli cercarono l'anima a forza di botte e un'altra volta ancora tra silenzio nella mia città, in estesi nella mia città, in estesi nella mia città, in estesi nella mia città. Sotto una coperta di cemento si addormenterà. In the City nella versione originale Paul Weller e The Jam 1977. Iniziamo così quindi il 2015, andando a prendere cose nuove e vecchie. E cose comunque che ci danno energia per iniziare il nuovo anno a dovere. Perché il nuovo anno ancora una volta dovrà essere un anno di battaglie, di lotte, di forza. Di convinzione che il nostro modo di creare, di fare, di ideare sia il modo giusto in realtà per viversela meglio questa vita di merda. E nella convinzione che invece c'è tutta una rete di poteri sopra, sotto, in mezzo a noi, le volte anche dentro di noi, che ci impedisce di viversela a dovere. Quindi da capo, lungo la strada, perché è lì che ci trovate, è lì che stiamo. Lungo la strada, una fila di alberi morti,

Bada bada, eccolo, serve il seno, calci, spugne, molotov. E dal momento che poc'anzi, qualche istante fa, ci ha chiamato il conduttore, l'ira funesta di chi sparge l'odio al vento per raccogliere tempesta di chi resta senza di niente da venne, il tragico tramonto verso il nulla, creatore. La doppia H del venerdì pomeriggio su Radio Onda Rossa. Pessimo, una marea di scheletri nascosti nel tuo armadio. Lui lo fa apposta, ci chiama perché vuole che noi lo nominiamo. Finché la serpente non lo. Ma in realtà il conduttore di Niente da Vendere è un grandissimo professionista. Sì, e al contrario nostro, che invece studia siamo diversi dettagli della radio, insomma. Della radio e anche della mente umana. Sì, è uno scienziato. Sì. Grinder e che è elettrico. Noi andiamo così. Classico per risputarlo in faccia all'elite in doppio petto. Anche con un po' di interesse. Dura, puoi provare anche a rimangare nella selezione che è propria di questa persona, cioè il conduttore di Niente da Venne. Tu perché hai più esperienza? Io rimango nella fase precedente che è lo stupore. Quindi mi sto rendendo conto, insomma, delle potenzialità del conduttore di Niente da Vendere, però sono ancora stupito. Eccolo, serve il seno, calci, spugne, molotov, carica lo stereo, vostri Robocop, non tratto con l'impero e faccio volentieri a meno detto il checkpot. Eccolo, serve il seno, calci, spugne, molotov, carica lo stereo, vostri Robocop, non tratto con l'impero e faccio volentieri a meno detto il checkpot. Fuori come squali, me ne frego del tuo jackpot, ormai antisociali, tu sul social network, fuori dal contesto di cocco ed escort, finti narcos, import export, esco, compra con Mastercard felicità di plastica, qui chi mangia merda, guarda come mastica, Roma in prima pagina, infama e poi si vende silente, dorme negavo dentro le banche, apre le danze con gli occhi rossi e pisti, le vostre morti bianche, i soliti due spicci, tu campi cent'anni perché tanto non t'empicci, il mondo corre troppo, piazza grigia sui tralicci, Roma grigio fumo che non vede mai la nebbia, l'odio per le guardie, per le gabbie di Rebibbia, colpi con la tibia dalle casse, rime grasse, serve in seno, sai non suono per le masse, stacce, la PS mi controlla, io mi perdo nella folla, giri con la gangman, io c'ho una colonna, urla e si dimena come una strega eretica e salta come dita di Sindona su una lettera. E quindi, appunto, dicevamo fuori onda che i Serpenseno saranno venerdì, guarda caso, all'interno della trasmissione niente condotta dal conduttore di Niente da Vendere. Niente da Vendere. Quindi venerdì dalle 14 con Niente da Vendere troverete appunto Serpenseno. Troverete ne allegato i Serpenseno che ci verranno a trovare. Comunque non era a caso dalla doppietta La Furia Serpenseno, perché ve lo andiamo a dire ancora una volta, perché vi tartassiamo, perché questo è un po' il potere poi del ripetitant juvant. Per sfinimento. Mazza che citazione, però l'ho detto sicuramente così. Pieri veri oggi come ieri, come nocche tra i tuoi occhi, acquati nei sentieri. Da uno che c'ha un diplometto tecnico abbastanza scarso. Ribelle ne sentirai delle belle nate. Gente di strada. Come perle, con aster tra le stelle. Radioattivi bloccanini con il cuore a mille. Avide scintille nelle lande, sbirri killer. Con le strofe impavide. Dopo la. Quindi La Furia Serpenseno faranno il paio poi a Dirty Job e Kalashnikov. Benvenuto nella generazione. Invece no, non l'avevamo detto. La prossima prossima settimana, avevo accennato, una prossima settimana chi avremo qui in studio direttamente e ci verranno a trovare, guarda caso, guarda caso. Una serie di coincidenze veramente. Saranno qui in studio a 25 o'clock i The Dirty Jobs. Ehi, nell'aria da un po', un tot di polveri sottili. He come to me with money in his hand. He offered me, I didn't ask him. I wasn't knocking someone's door down, I was running from that. When I got out, I was in that. I was already through that. I had that. I had the studio. I went to the studio, went to Vox. A un amico nostro soprannominato Air Banana. Ti è piaciuta la copertina del loro ultimo disco? And 10 or 15 girls, what the hell I want to go off into and go to work for? Work for what? Money? Loro della provocazione fanno il proprio essere. I run the underworld, guy. I decide who's da Los Angeles o giù di lì. That grip. I make the money, man. I roll the nickels. Beware. It's mine. I deal the cards. I close my eyes and seize it. I clench my fist and beat it. I light my torch and burn it. I am the beast I worship. And I know you got my temper and my mortal pale burns. But I did not determine. I'm taking past the point of no return. Wage war like no tomorrow, cause no hell there won't be one. For all who deny the struggle, the triumph and overcome. Strips away a few of them that up to them. Upon our winds, life begins when the sun descends. If not with you, we'll ever know. Have seen the truth beneath the glow of the ebb and flow, where the roots of all mysteries grow. I land below, so far below the bottom line. Transmitting love, transmissions rise from the depths out of control above. Suspend the glance and I'm blinking eyes. And when it gets cast on the path that runs, on the path I find, the claim is mine. Of unrest made to make me shine as a testament to all the ways of the blind we'll never get. Shit forsake by my disrespect. Dismiss this life, worship death. Cold blood night of serpent's breath. Exhale like spells from the endlessness. In the bottomless well of emptiness. Channel to invoke what we represent. Secret order, elitist sword of creeping fire, seizing power. Pride is up, the loop is sour. I am bound, time is gone. Fight till dawn, sacrifice to rise beyond. Deep inside, the violent calm of the coming storm. In much war, to glorify and for life adorn. With all that dies to become born. I close my eyes and seize it. I place my fist and beat it. I light my torch and burn it. I am the beast I worship. I am the beast I worship. I close my eyes and seize it. I place my fist and beat it. I light my torch and burn it. I am the beast I worship. I am the beast I worship. E dal momento che state ascoltando Radio Onda Rossa, caro Onda Rossa, oltre al nostro bighellonare, alle nostre facezie, è una radio che fa comunicazione antagonista. È una radio che sta per le strade, che ci sta nel mondo, che ci sta nei posti di lavoro, perché chi la conduce vive questa vita, non vive nella bambaggia. Per mandare avanti questa emittente ha bisogno di sostentarsi in qualche maniera. Importante per domani mattina contro i 450 licenziamenti di Groundcare. e per denunciare i problemi occupazionali del sistema aeroportuale romano. Svolgerà una manifestazione presidio 8 gennaio 2015 dalle 10 alle 14 presso l'aeroporto Leonardo da Vinci, partenze internazionali all'esterno del terminal. Comunicato a firma dei lavoratori Ground Care licenziati. E poi ancora la prossima settimana, nel secondo, e tra l'altro diciamo questo anniversario cade appunto in un giorno in cui appunto a Parigi poi sono state ammazzate 12 persone. E abbiamo in precedenza ascoltato anche una corrispondenza della Francia di come sia, così da parte dei compagni che si trovano lì, sia una valutazione di essere l'ennesimo avvenimento torbido, come dire, affatto chiaro. Per quanto succede nella Repubblica Francese. Ritorniamo indietro appunto a un altro attentato che costò la vita a tre compagne curde. Guarda caso successo in Francia, Veritar per Sakin, Fidan e Leila. Il silenzio è dei complici. La prossima settimana, nel corso dell'anniversario dell'assassinio delle militanti curde Sakin, Kansiz, Fidan Dogan e Leyla Solemez, la comunità curda marcerà a Parigi per continuare a denunciare la complicità fra Turchia e Francia in queste atroci uccisioni. Lo slogan che raccoglierà la giornata di lotta sarà: il vostro silenzio è dovuto al vostro essere complici. Tra il 9 e il 10 gennaio 2013, all'interno dell'ufficio di informazione del Kurdistan nel cuore di Parigi, furono uccise a colpi di pistola tre militanti curde impiegate anche dall'esilio a costruire la pace per il loro popolo. Sakin Kansiz era fra le fondatrici del PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, ancora considerato un'organizzazione terrorista dalla Turchia, dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea. Fidan Dogan era impegnata a livello diplomatico in Europa nel processo di soluzione democratica della questione curda. Leyla Solemez era una giovane militante che aveva deciso di dedicare tutto il proprio tempo alle attività dei giovani. Tutte e tre avevano dovuto sperimentare l'esilio e sono state colpite perché rappresentavano la forza delle donne nel movimento curdo. Con la dichiarazione finale della prima conferenza delle donne del Medio Oriente si è deciso di fare del 9 gennaio la giornata contro i femminicidi politici. Anche a Roma è importante mobilitarsi per rompere il silenzio, ricordando le compagne uccise, con una giornata di lotta che dimostri la nostra solidarietà concreta con chi oggi sta combattendo una dura guerra contro l'ISIS, per difendere il progetto dell'autonomia democratica che è contro il sistema capitalista e patriarcale, un progetto di rivoluzione sociale sulle proprie terre e un modello per tutto il Medio Oriente e oltre. Numerosi gruppi di compagni e compagni stanno incontrando abitanti rifugiati di Dasuruk alla Rojava. Preziosi incontri di questi ultimi mesi non possono altro che spingerci a scendere in strada. Venerdì 9 gennaio, quindi venerdì prossimo, dalle ore 13 alle ore 18, appuntamento davanti all'ambasciata francese in Piazza Farnese per chiedere che la Francia collabori a fare piena luce e individuare tutti i responsabili materiali e politici dell'assassinio di Sakin, Fidan e Leyla. Questo è un comunicato a nome della rete romana di solidarietà con il popolo curdo, ufficio di informazione del Kurdistan in Italia, Wiki. Centro sociale socioculturale Ararat, coalizione popolare internazionale contro l'ISIS. Questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa e dal momento che quest'oggi abbiamo approfittato dell'assenza appunto di Elettrodo, non possiamo che omaggiarlo con quella che potrebbe essere una parte delle sue selezioni, e cioè l'ultimo lavoro targato 2014. Per ora non abbiamo, credo, nessuna nuova uscita 2015, quindi non ne sono a conoscenza. Non ne siamo a conoscenza. No, non dico di Bologna Violenta, in generale dico stasera stiamo mandando cose di 2015. Non è il mio caso. Non è nemmeno il mio, quindi diciamo le cose più recenti sono quelle del 2014 che manderemo questa sera. E questa appunto è l'ultima uscita per quanto riguarda Bologna Violenta, che si chiama appunto Uno Bianca, che è un insieme di 27 tracce in cui ogni traccia rappresenta un episodio della sanguinosa tra l'altro è piuttosto equivoca, diciamo, carriera criminale da parte di della squadra praticamente di criminali barra poliziotti che erano i fratelli Savi e i loro collaboratori. Che misero a segno nell'arco di 7 anni, dal 19 giugno 1987 al 21 ottobre 1994, appunto un insieme di di atti di sangue a scopo, diciamo, più o meno di rapina, di estorsione, insomma. Di cui sarebbe anche interessante un giorno fare un'analisi più approfondita, o comunque magari scopiazzare qua e là le tante cose che sono state dette a proposito appunto della Uno Bianca. E una delle tante cose è appunto quella della One Man Band che si chiama Bologna Violenta, che presenta questo lavoro. Un altro lavoro interessante che andiamo a presentare è pronto sull'altro CD. Cambiamo terra e attraversando l'oceano ce ne andiamo in quel di Montreal, una delle band che da queste parti è stata più così seguita e che così leggendo in giro le, tra l'altro un disco anche questo del 2014, ma che noi appunto nella nostra precisione appunto dilettantistica presentiamo praticamente un anno dopo, perché uscirà a gennaio del 2014. Stiamo parlando di Silver Mounted Zion, Memorial Orchestra, come di tanto in tanto amano, come cambiano, diciamo, il loro nome nel corso degli anni, che ha mutato grida senza parole a secondo anche della formazione che presentavano. Questo disco targato 2014 e che vengono accompagnate fuori dalla chiesa, rotto dal pianto straziante dei parenti. È composta al solito di lunghe tracce sui cartelli. E il silenzio piomba improvviso anche su Piazza Maggiore, percorsa da un vento gelido. Dopo nella fattispecie, in questo caso, sei tracce. È una promessa. In cui effettivamente cambiano un po' di stile, di modo di. Impegno preso. Di proporsi. Ragazzi carabinieri. Altri giovani. Le trame si fanno più complicate e, se volete, qualcuno ha scritto anche più metalliche. Io devo dire che sono abbastanza rimasto invece turbato da questa variazione di sonorità, di anche di determinazione, di schema costruttivo del suonare. Sono, diciamo, frastornato, probabilmente mi piacerà più tardi, per ora rimango abbastanza perplesso. Abituato come ero a appunto Silver Mounted Zion molto acustici, molto sinfonici, con questi lunghissimi crescendo, ecco, un po' spiazzante questa roba qui. Il suono è non tanto irriconoscibile, ma c'è molto cantato, per esempio, mentre invece prima le parole erano di contorno. Insomma, è abbastanza particolare questo loro ultimo lavoro. Ultimo lavoro, che si chiama Fuck Off Get Free, We Pour Light on Everything. E da qui andiamo ad ascoltare la orientale, diciamo così, Take Away This Early Grave Blues. I don't think of myself as a girl singing rock and roll, I just think of myself as a person doing something, and that's it. And I suppose other people think of it like that, but I don't. Well, I don't know why they think of it like that, but it's just that they've got closed minds, that's all.

E non poteva essere così più adeguata alla giornata questa Heavy Rain per quanto riguarda i Boris, che appunto hanno questa loro facoltà di poter cambiare abbastanza schizofrenicamente da una parte all'altra del mondo delle ritmiche. Quindi la lentissima Heavy Rain, appunto, in una giornata come quella di questo pomeriggio, questa notte, quando ha cominciato a piovere, appunto, una pioggia appiccicosa e pesante. Disco tutto nero, quello loro del 2004. Takeshi Wada e Atsu, i tre componenti dei Boris. E andiamo per ultimo a ricordare, per quanto riguarda le cose che succederanno nei prossimi giorni, le strategie pratiche della campagna BDS a Roma, 10-11 gennaio 2015 allo Agrobax. Quindi per chi ha seguito la campagna boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, questo è il momento per fare un po' il punto della situazione. Ci saranno diversi tavoli e diversi argomenti da affrontare. Rimandiamo per maggiori informazioni al sito http://bdsitalia.org. Restiamo ancora per un po' da queste parti, ritorniamo anzi da queste parti, una nostra ospite di non molte settimane fa, che è venuta a fare un live mentre si prospettano altre occasioni per poter far sentire musica dal vivo qui dai microfoni di Radio Onda Rossa. Diciamo, lei è venuta qualche settimana or sono. Andiamo ad ascoltare il sesto movimento del suo disco, che si chiamava 9 di un paio di annetti fa. Iperattiva, lei è Lily Refrain a Radio Onda Rossa 25 o'clock. dai, Onda Rossa 25 o'clock 2015. Questa è una roba che è tipo un'anfetamina gigante, una cosa che ti dà un'energia che vorresti spaccare tutto. Anzi, già vorremmo spaccare tutto di noi, di nostro. Così io non conto niente, non sono nulla. Uno fra i tanti sciocchi a cui piace blaterare. Però insomma, questa roba qua a noi piace assai. Loro vengono dal circolo polare artico, ma c'hanno il cuore e lo sguardo rivolto all'Africa nera. Si chiamano Goat. E questi sono i figli della capra, Goat Child. Da capo a Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Thank you. 23:34 minuti primi. Siete sempre all'ascolto di 25 o'clock. 87.9 di Radio Onda Rossa. (06) 49 17 50 il numero di telefono. E il prossimo è un gruppo di Roma, sono gli Juggernaut, usciti da poco con Trama. E noi dall'ultimo lavoro ci ascoltiamo la quinta traccia, che è Crapula. qui a microfoni spenti, come spesso diciamo, facciamo i nostri migliori commenti. Cazzeggiamo ancora di più di quanto facciamo in diretta. No, però stavo pensando a quanto può essere soggettivo l'ascolto, no? Sì. Perché tu, ascoltando i Juggernaut, ti è venuto in mente... Beh, un po' di band, poi quelle che insomma conosco di più, Calibro 35, piuttosto che... come si chiamano gli Aritani? Non mi viene in mente, vabbè, non importa. Però hai citato anche Mike Patton. Ho citato Mike Patton, mi è venuto in mente insomma una serie di band che poi suonano e hanno di personaggi pure che hanno avuto molto influsso poi sul modo di suonare anche qui a Roma e in Italia in generale. È un pensiero così che mi viene ancora oggi. Invece te cosa pensavi di questa formazione romana? No, però poi insomma si è andato anche a notare che c'è comunque una radice metal nel suono. C'è una radice metal nel suono. E mi erano venuti in mente dei canadesi, che vabbè li conoscete insomma se seguite un pochino le nostre idiozie. Beh, ti sei abbastanza presentato con loro tu. Comunque no, prima che passi all'argomento successivo appunto e vai a presentare, volevo dire appunto Juggernaut, quindi questa band romana, ancora un altro tassello allo splendido momento secondo me che sta vivendo poi la scena romana. Scena romana. La scena romana e dintorni, perché appunto anzi più volte noi parliamo di periferia estrema, cioè della provincia e delle altre province. E che vanno pure un po' a sfuggire le varie etichette di genere, insomma, sì, una sì. Metal, una psichedelia, insomma, di avanguardia. Sì, sì, sì. Quindi cosa ti veniva in mente a te ascoltando? Metal d'avanguardia canadese, loro sono i Voivod, qui dell'ultimo disco, che è Target Earth. Yeah. Ratchet and Gulliver was that I'd like to have her right down there on the floor with the old renowned real savage. Del primo disco degli Acid Bat del 1994, è When the Kite Strings Pops. Insomma, pure loro gran mischioni. E traccia dopo traccia passano dalla psichedelia, dall'hardcore al grind. Noi, visto che ci avviciniamo alla mezzanotte, vogliamo concludere questo giorno con un brano adeguato. E anche iniziare un nuovo anno con un augurio. Con un augurio. Noi ritorniamo da queste parti, in provincia. E vengono da Colleferro. Placcaggio, blocco, porco Dio. Placcager Core insieme a un botto di altri gruppi. Tra i tanti, Klaxon, Buffalo Grills, Southern Destruction. E quindi in quel dell'intifada. Assedio. Assedio. La furia. Sì, la furia, insomma, tanti tanti. E quindi il 10, sabato 10 gennaio. Siccome sono un botto, si inizierà dalle 17, almeno è segnato. E si finirà molto molto, molto tardi. Questa è Roma, quindi si chiama l'iniziativa Centro Sociale Intifada, sabato 10 gennaio 2015. Sotto vanno gli Against Nature. Sometimes I need you to... Gruppo già attivo a metà degli anni Ottanta, just... sotto il nome di Revelation. Oh. E e i Revelation erano una delle formazioni presente sulla compilation uscita su Rise Above, che è Dark Passages. E mentre qui il professore ha trovato un reperto archeologico qui all'interno della radio, una sorte di codice. No, beh, questo è troppo. Vabbè, però vi ci facciamo capire qualcosa. Abbiamo trovato una custodia di CD, sicuramente di un redattore o una redattrice, con dei titoli veramente imbarazzanti. Però per pudore e ci sono anche no. È un'escalation. Sì, sì, no, è terribile. Cioè, questa custodia di CD è tipo un film horror. Vabbè, cerchiamo di ricomporci, insomma, da questo shock. Non roviniamo in diretta un redattore o una redattrice di Radio Onda Rossa. Parlavamo di Rise Above prima. Quindi ci andiamo ad ascoltare da dall'EP Static Magic del 1994 da Coventry. Loro sono i Cathedral. Questa era la lunga traccia The Secret Above, The Secret Below, che dà il titolo a tutto il lavoro. È una lunga traccia di 8 minuti. Come mezzanotte 24 minuti, in piena 25esima ora. Andiamo a ricordare che sempre il sabato 17 gennaio. Sì, sabato 17 gennaio, proprio qui a Roma, il corteo popolare Fermarli è possibile, grandi opere, sfratti, sgomberi, devastazioni ambientali, sempre a fianco di chi lotta. 17 gennaio alle ore 15 a partire da Piazzale Tiburtino, solidarietà con gli imputati e le imputate no TAV del 15 ottobre, quindi un corteo che diciamo si dispiegherà per le strade di Roma. Proprio sabato 17 dicembre, anche in virtù del fatto appunto che c'è stata l'assoluzione di Chiara Claudio e Mattia Nicolò per quanto riguarda l'accusa di terrorismo, ma comunque sono dei compagni che più o meno rimangono costretti, speriamo appunto di poterli perlomeno liberare dal carcere e farli tornare a casa. Però appunto ci troviamo ancora in una fase in cui, malgrado appunto i castelli accusatori più fantasiosi, ecco, vengono almeno smontati, però la repressione rimane, i compagni inquisiti e accusati con le più varie accuse, appunto implicazioni, vari articoli di legge, sono tantissimi, e appunto questo necessita anche di scendere in piazza per ricordare appunto che si ha la forza invece per dire che le lotte non si processano, sono una cosa che ci serve a tutti e a tutte per semplicemente sopravvivere e cercare di far rimanere il nostro, l'ambiente in cui viviamo, il luogo in cui viviamo, il più appunto umanamente vivibile e relazionabile. Quindi 17 gennaio alle ore 15, Piazzale Tiburtino, solidarietà con gli imputati e le imputate del NOTAV del 15 ottobre, 17 gennaio. Invece, brevemente, perché c'è pure questa roba qui, sabato questo, più vicino, ancora lotte che si uniscono, lotte che vanno di pari passo, perché appunto ci si accorge che finalmente che casa, come recita, vado a leggere quello che recita l'indizione, casa e salario, nella lotta ci uniamo, pranzo sociale di occupanti e facchini, tutti e tutte invitati alla grigliata di carne vegetariana, racconti delle lotte, proiezioni video delle più belle immagini di scioperi, occupazioni e torneo di calcetto, via di Sambuci, angolo via Tiburtina, sabato 10 gennaio a partire dalle 12:30. Thank you. so long since you've been gone. And the hand of time is with her like a life prolonged. Yeah. Sono i Pentagram, attivi del 1970. Quindi è un disco del 1999, uscito sull'italiana Black Widow Records. Mezzanotte e 40 minuti primi, anzi 41 praticamente in questo istante all'orologio classico del Norcino di Radio Onda Rossa. E chi sa, chi l'ha visto sa perché è l'orologio del Norcino. E ok, un pochino più bassa, ma sai, ritorno in cassa, se no andiamo fuori. Sì. Ok, perfetto, vai. Dicevo, sì, dicevamo, 20 e 40 ci venivano in mente così in questa notte, spesso succede nelle notti di 25 o'clock, magari leggendo quella sulla rete e andando a così approfondire un po' di più il comunicato per la manifestazione appunto di sabato 17, che poi in queste settimane andremo mano a mano a dispiegare qui in radio, a seguire questa iniziativa che si terrà appunto il 17 gennaio alle 15. Leggevamo nel comunicato appunto che si faceva l'elenco un po' delle grandi opere, dei molti soldi che vengono persi nella realtà quando, o che vengono guadagnati a seconda appunto che una grande opera si faccia o meno, per quanto riguarda le amministrazioni locali, come per quanto riguarda tutto quel sistema di ormai c'era negli Stati Uniti il sistema militare industriale, in Italia esiste un sistema tangentizio di corruzione da una parte e di aziende con delle caratteristiche mafiose, e allo stesso tempo questo sistema poi collima con il sistema delle grandi opere, quindi della possibilità di poter spendere denaro pubblico per fare delle cose che normalmente non servono, insomma. Poi di recente comunque la notizia di qualche giorno fa del viadotto crollato sulla Palermo-Agrigento ad opera della CMC, insomma. Della CMC, che sarebbe questa azienda, c'ha il nome altisonante di cooperativa, ma di cooperativa di lavoratori, come era in partenza queste aziende più o meno legate all'ambiente delle coop rosse, così si dice, no? Che in realtà sono aziende a tutti gli effetti, insomma, anche nella vicenda qui di Roma, insomma, sono uscite coinvolte delle cooperative, delle aziende che poco avrebbero dovuto a che fare, dato il loro mandato statutario, con episodi appunto di manipolazione, di mafia, di corruzione, eccetera eccetera. Ma al di là di questo fatto, secondo me c'è anche un gioco semplicemente molto banalmente di potere. Le riflessioni che mi vengono da molto tempo, cioè a un certo punto pian piano, molto lentamente, anche queste assoluzioni della magistratura possono essere in tal senso interpretate, sta uscendo fuori che in realtà appunto Statav non serve proprio a nessuno, a parte appunto queste lobby che ci guadagnano sopra. E sta uscendo fuori appunto che non serve a nulla, che è un'opera come detto da sempre da movimenti inutile e dannosa, e praticamente però il problema è questo: se a un certo punto te dici che questa roba qui è una cosa inutile e dannosa, poi dopo tutte le persone che hai represso, condannato, accusato, e i movimenti che hai soggiogato, che hai malmenato, che hai tartassato appunto attraverso tutti gli strumenti della repressione, avevano ragione. Certo. È un problema piuttosto importante, per cui appunto il potere, che non può svelarsi per quello che è, dovrà inventarsi qualche scamotage, insomma, e se lo inventerà dicendo magari che non è più profittevole l'opera, che magari dando la colpa a qualcuno che aveva sbagliato i conti, i progetti, eccetera eccetera. Insomma, staremo a vedere, perché penso poi tutto sommato che le cose, avendo seguito da tanti anni la faccenda, andranno un po' per questo verso. like to have been dead frozen too. I'm waiting still as pushing your flesh for my return to work. But your father refused to sign the form to free you. And see you be about 60 now, longer by the time that I return to work. My time held dreams were full of you then, as you were. Joke. When she comes, she moans her another's name. And that's the spirit of the age. Spirit of the age. Is that the spirit of the age? Spirit of the age. Is that the spirit of the age? Spirit of the age. Is that the spirit of the age? Spirit of the age. Is that the spirit of the age? Spirit of the age. E allora, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Buonasera, buonanotte da una voce che ogni tanto passa da queste parti. Ottantasette e nove in modulazione di frequenza, Radio Onda Rossa, il segnale indipendente della capitale. Allora, signori e signore, domani mattina si inizia proprio col botto. Alle ore 8, prime pagine e rassegna stampa. Attenzione, perché alle 9:30 arrivano i redazionali e questi sono ragazzi molto molto molto cattivi. Sicuramente con quello che è successo oggi in una redazione di un così di un quotidiano, di un giornale satirico, saranno ancora più cattivi. E poi fino alle 13, quando ci sarà il giornale radio di Radio Onda Rossa 87.9 FM. Attenzione, perché alle 13:30 arriva lo spazio comunicazioni, quello spazio in cui non tutto è definito, però qualcosa è chiaro. Alle 13 poi il giornale radio, spazio comunicazioni appunto, e poi alle 14 questo Visionari. Attenzione perché i film arrivano dallo spazio indipendente. E poi magari vi potete beccare Erbobinone, come dicono qua a Roma, perché poi alle 16 Attica Blues. E poi alle 17 c'è quella voce l'Esquilina del Sol. Attenzione, l'Esquilina del Sol. Esquilina del Sol. Qua poi mi becco i commenti negativi di qualche personaggio storico di Radio Onda Rossa. Vabbè, signori, e poi il palinsesto continua fino a mezzanotte. C'è veramente la qualunque, scusate questo termine, ma mi piace, la qualunque ai microfoni di Onda Rossa. Voi connettetevi, così sintonizzatevi sugli 87.9 e sicuramente ci sarà solo roba forte. Sia a livello di contenuti che a livello di suono. E allora 87.9 radio. Aspetta che ti alzo. Il 2. Eccolo qua. Eccolo. No, non eccolo. È. Sì, è questo. Sì, c'è. È un po' più il DNA. Il DNA ogni tanto fa brutti scherzi. Vabbè, 105.250. Io saluto tutta la gente che mi sta ascoltando, non starà ascoltando nessuno in quel del profondo nord. Vi ricordo che quelli che avete ascoltato in sottofondo sui prossimi appuntamenti di Radio Onda Rossa sono i Frammenti, uno dei gruppi fondamentali, seminali di una persona come me che porta appresso il suo bagaglio di musica e cultura. E niente, io non so chi ci fosse prima. No, noi al solito sono arrivato qua, Fefo, e ti abbiamo messo il microfono. Ti abbiamo messo, ma però ti ho anche detto. No, ma io ci sto dentro. Sì, sì, ti ho anche detto che qualsiasi persona sarebbe da lì, ti avremmo dato barche. Ma allora facciamo una cosa. Quanto stanchi. Facciamo una cosa. Sì. Io metto un pezzo. Sì. No? È giusto. Facciamo una cosa, metto un pezzo. Metto un pezzo così. Al volo. Ma no? Lo vogliamo fare magari salutando tutti i detenuti, no, e le detenute? Certo, assolutamente. Così facciamo, sì, proprio il finalino e no, e anche poi, perché io non so come sei andato qua il Capodanno, io non c'ero. Però mi sembra anche giusto ricordare che ogni anno, ogni fine anno, qui a Roma, organizzato da Aragni Onda Rossa, ma anche da altre compagne, città, compagne, certo, chi lo fa al pomeriggio. Io ad, certo, esempio arrivo da Torino, al pomeriggio non l'ho mai si fatto fa. L'ho fatto sempre a mezzanotte, in modo, sì, molti, a un ma a Roma l'abbiamo fatto un paio di volte a mezzanotte, una volta sicuro, la seconda non, no, sì. Io volevo così ricordare che non è solo il Capodanno, nel senso che se si moltiplicassero i presidi e le iniziative sotto i carceri d'Italia, poi c'è chi si occupa di quel carcere vicino a casa propria e chi si occupa del carcere nella propria zona, che poi però i carceri l'hanno anche diversificati, per cui manco ce n'è uno, c'è sta il carcere, c'è sta la casa circondariale, ci stanno i CIE, ci stanno i CARA, ci stanno 2000 modi per rinchiudere le persone a seconda così della loro provenienza, come dire, del loro stato sociale, che è ancora più dettagliato, più appunto rispetto a quello che c'era una volta, rispetto appunto al fatto che ci fosse un solo strumento repressivo, il carcere. Adesso ce ne stanno tantissimi di luoghi di detenzione. I luoghi di detenzione sono ovunque, sono attorno a voi, signori e signore, e purtroppo, perché bisogna dire purtroppo, noi tentiamo sempre di abbattere le barriere portando un giorno i suoni di Radio Onda Rossa, un altro giorno magari, che ne so, i petardi, che possono essere quelli che possono essere lanciati sotto il carcere a Capodanno. Ma noi siamo sempre lì, ricordandovi che di carcere si muore, di carcere comunque non bisogna più parlare. Non bisogna vivere, come diciamo da queste parti. Io volevo così abusare del mezzo per salutare Alberto Fagiolino, perché comunque abbiamo tanti nomi, tante persone che in questo momento magari non sono sui manifesti, perché magari non sono dei nomi come tipo Federico Aldrovandi, seppur Aldrovandi c'ha un rispetto nei confronti del movimento, nei confronti del sottoscritto. Però ci sono tante persone, leggevo ultimamente di un 19enne che si è impiccato così dopo il 31 dicembre in un carcere. Ma di questi episodi ce ne sono tantissimi. E quotidiani. E quotidiani, sì, e quotidiani, e noi siamo sempre all'ascolto dei 87.9, questa è Radio Onda Rossa, questi sono i frammenti. Scatola. mia collezione. Ho visto un uomo verticalizzarsi con occhi da pesce e da mostro. Ho visto un uomo verticalizzarsi con gli occhi da pesce e da mostro. Allora, 87.9, 105.254. Scusate, raga, è un studiando i numeri. Fefo, che ne pensi? Dice le lettere ROR, Radio Onda Rossa, a Roma dal 1977, libera nell'etere. Appunto, questa conclusione col botto. D'altronde, appunto, abbiamo festeggiato il nuovo anno da poche ore. E come c'è Radio Onda Rossa, c'è Radio Blackout, ci sono tante radio autogestite, liberate. Per fortuna. Ci stanno, e per fortuna pure comunichiamo fra noi, insomma, ci scambiamo poi connessioni e vite. E allora io questa voce, come dicono qua, questa voce. Vi lascia una buona serata, una buona notte. 87.9 sempre nel cuore. Io vi ricordo 17 gennaio Kalashnikov, La Furia, Dirty Jobs, Serpenseno, hip hop, punk, hardcore, tutti insieme per sostenere queste libere frequenze. E allora poi vi ricordo che nel pomeriggio corteo a partire da Piazzale Tiburtino, ore 15, per in ricordo dei Notav comunque inquisiti, indagati, che comunque hanno avuto per la maggior parte un resoconto abbastanza felice. E vi ricordo corteo Notav in ricordo anche delle persone ingabbiate per il 15 ottobre. Allora, con Claudio, Nicolò, Mattia. Mattia, bravo, Francesco e altre persone nel cuore. Io vi ricordo che c'è comunque un processo verso 53, e dico il sottolineo 53 persone, che comunque continua ed è sempre al bando della procura torinese. E allora un saluto a chi è così privato della propria libertà, che sia in carcere, che sia ai domiciliari. Ciao Alberto, ci sentiremo nei prossimi giorni, sempre nel cuore. E noi andiamo, io almeno vado a concludere questa mia piccola selezione che mi ha visto ai microfoni dei 25 O'Clock. Ogni mercoledì i suoni dell'underground, quelli più cupi ma anche quelli più punk hardcore. E allora andiamo con un gruppo così che arriva da una regione vicino alla mia originaria. Loro, se non ci fossero stati loro, comunque ci sarebbe un problema, nel senso che ci sarebbe un problema di comunicazione tra quello che era il Piemonte e quello che era comunque la Liguria. Attenzione, eccoci qua. Ciao, questa è la voce di Mastello, 87.9, Radio Onda Rossa. number of times comes radical minds. I'll share our dreams under a communist moon.